Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, bentrovati, buon lunedì a tutti, buon lunedì da Caffè e Paglia. Era un po' di tempo che non eravamo così felici, diciamo così. Palla per te. Vabbè, sì, non tutti, non tutti. Un saluto d'amico da questa parte del salotto buono della città. Ringraziamo lo splendido regista Dado che ci accompagna e festeggia a suo modo, in maniera comunque molto dignitosa. Ma perché non l'hai sentito prima? Ti dovresti vergognare, ti dovresti. No, vabbè, adesso. Non deve uscire questa tua. Oh, non mi guarda così, Non deve uscire questa cosa. Per favore, nello studio lasciate. Colpa mia, sto di cattivo umore. Sì, sei un po' di cattivo umore, immagino, caro Simone, anche per come sta andando la Samba del Tese. Di merda. Esatto. E quindi quello è l'umore tuo. Va bene, grazie. Ricordo che c'è una trasmissione comunque da portare avanti. Schianto sardo. Perso in casa con la torre. Guarda che vengo di là, sentite. Secondi così vengo di là. Con calma. Dobbiamo ancora salutare la stella della trasmissione. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh ragazzi, è un weekend che direi leggero, io lo definirei leggero. Voglio ribaltare la narrazione su questo fine settimana pensando a come si può volare come una farfalla e pungere come un'ape in area di rigore, di mezzo esterno, di punta, sul palo più lontano, come uno dei nostri eroi personali di questa settimana, forse l'eroe personale della settimana calcistica. Eh sì, stiamo parlando ovviamente del ricamo dello spadaccino Castro, che veramente la fa bella da puntero, da punta. Proprio di punta in un momento in cui molti mettevano in dubbio le sue qualità proprio di punta, perché era un po' che non segnava. E lui prova a lanciare il trend meme: fammi capire che sei un attaccante sudamericano senza dirmi che sei un attaccante sudamericano. E quello è un movimento proprio tipico di quella scuola. Ottima la palla di Bernardeschi, ottimo, diciamo. Partiamo da Bologna-Torino, ovviamente. Torino-Bologna. Luogo in cui il Bologna spesso ha perso e giocato brutte partite, anche nell'anno meraviglioso di Motta. Alcune bruttissime in cui tu c'eri. Io ero anche presente. Forse la più brutta partita. dei pareggini sotto l'acqua, del delle calcio, cose così, proprio. Sì. Addirittura ho visto perdere contro un Torino inguardabile, che rimane comunque abbastanza inguardabile nel corso degli anni. Cambiano le cose, ma quella è un po' una certezza ormai, che in Torino c'è una squadra fatta un po' così, in cui i tifosi sono perennemente in lotta contro il buon Cairo. Pare che un centinaio di tifosi della curva, che era praticamente vuota, hanno disertato la curva per comprare biglietti di tribuna centrale, cioè quelli che costano di più, per poter insultare Cairo da vicino per i primi 20 minuti, da più vicino possibile a quel prezzo lì. Cioè loro hanno preso il biglietto, qual è Cairo, dov'è il posto di Cairo, è questo, vogliamo tutta la fila, tutte le file sotto. E l'ho sentito all'inizio ascoltando la radiocronaca di Bologna, dalla parte del Bologna, che dicevo io non ho mai visto questa situazione, in realtà era difficile, insomma, riuscire ad andare avanti, perché loro avevano preso quel biglietto lì, proprio in quel posto lì, e lo steward non può farci niente, loro guardavano e erano nel posto giusto, non è che si sono messi a sedere in un altro. È vero che lo stadio era praticamente vuoto, insomma, quindi c'era pochissima situazione per quanto riguarda una squadra che comunque diciamo stava subendo il buon Bologna che avevamo già visto in questo ultimo periodo, che però con la prima folata di vento veniva spezzato. Diciamo, io sono un ottimista e quindi dico, per fortuna abbiamo preso un gol diverso. Cioè, io, diverso, forse peggio degli altri. Non però, diversissimo. Beh, così non l'avevamo mai. Cioè, con un quarantenne che porta a spasso 5 giocatori della difesa e che erano presenti e piazzati stavolta, no? Cioè, nel senso, in quel senso lì è un gol diverso. E forse peggio perché era veramente. Cioè, no, non so se Simone l'hai visto il gol con Zapata che porta via tutta la difesa. Sì, che andato prima verso l'esterno, prima controllato, poi andato verso l'esterno facendo passare il pallone dall'altra parte. Sì, sì, ho capito bene. Non ho capito bene cosa ne dici per diverso. Diverso dagli altri che abbiamo preso di solito, cioè nel senso che gli altri c'era un lancio lungo, noi eravamo in ritardo e non abbiamo preso quel tipo di gol lì. E soprattutto dopo. Beh, c'è sempre filo comune denominatore, una mancanza di reattività della difesa che insiste, magari sotto un altro piano, ma sì, sì, sicuramente il problema rimane, era una battuta la mia per dire che era diverso, sì, era una cosa nuova, soprattutto di diverso è, rispetto agli ultimi tempi, la reazione post-gol subito, perché il Bologna riprende in mano il gioco e merita alla fine di portare a casa la vittoria, nel senso lo merita, a parte per il gol, anche sul campo per il gioco espresso. Tutto nel secondo tempo, già nel primo tempo il Bologna aveva fatto vedere che c'erano delle energie e delle idee, sicuramente c'era la voglia e anche gli strumenti per riprendersi dall'ultimo periodo abbastanza disgraziato. Là davanti gira tutto bene. Il salto del centrocampo delle nostre avversarie nei confronti del Bologna sta diventando una cosa retorica e regolare, cioè una presenza fissa nei... Vabbè, ma cioè, con il vostro sistema di gioco che sempre pressione altissima, no? Già da centrocampo in su, credo che sia una normalissima reazione da parte degli avversari. Tu che faresti più? Questi sai che esatto, cioè, se questi vengono lì a pressare, bypasso direttamente. Fioda giocatore non lo farebbe mai, lui non vuole lanciare la palla bassa e quindi ricamerebbe qualcosa. Giocatore tecnico che è noto soprattutto perché sa giocare con la birra in mano. Bello, cosa che non tutti sanno fare. Sono artefice di una linea di difesa organizzata anche con la birra in mano. Con la birra in mano, però, cioè, quindi comunque è più difficile che altre situazioni. Però è vero quello insomma, che stavamo dicendo. Si vedono anche i nuovi acquisti in questo Bologna un po'. In realtà è un tema probabilmente anche da top 5, nel senso che anche in altre partite si vedono i nuovi acquisti, ma nel Bologna si vede João Mario e Som, entrambi titolari subito all'inizio della partita, e devo dire che entrambi fanno una buona partita. Due prestazioni gagliarde, e Som becca anche un giallo su una cosa che non è neanche fallo. È vero, a un certo punto. Sì. Ma anche i metri di giudizio e la. Avremo la modo di parlarne. Arbitrale avrà spazio. Fa finta di non sentire. Avranno spazio. Modo di parlarne. Tutti questi temi avranno spazio nella top 5. E João Mario accelera, porta palla in progressione in un Gli modo. Gli avevo detto del ragazzo, molto non era male come invece sembrava a Torino. E anche se, specialmente nel primo tempo, si preferisce giocare dall'altra parte sull'asse Miranda-Rowe, Miranda non benissimo, Rowe uno dei migliori in campo. Da un po', dirlo. Sta crescendo di continuità. Gli manca la cosa, in realtà il gol sembra. Lo guardi così e dici gran palla di Rowe e colpo di tacco di Moro, un gol strepitoso. Invece no, c'è una deviazione e Moro non la tocca mai, non la tocca neanche, la devia Vlasic, però da così da come era pensata l'azione, e poi con Moro che indica esce, indica Rowe, dice no, ci si sono guardati. Perché andare a rovinare una bella bugia con la volgarissima verità? Per me è gol di tacco di Moro. Gol di rimane gol di tacco di Nicola, il mas grande Moro, ottima anche la sua gara. Si è ritornato dopo un periodo di leggera flessione, di Moro è ritornato a buoni livelli. Som fa vedere le caratteristiche che lo hanno fatto, tra molte virgolette, preferire a Fabian, cioè la versatilità di impiego. Lui gioca gioca un po' mezzala, un po' trequartista. Lui copre tre ruoli nella parte centrale della metacampo avversaria, diciamo. Ed era una delle cose che aveva detto Italiano, non so se intendesse proprio nella stessa partita, però l'abbiamo visto più o meno di lotte di governo. Ci ha provato anche con un'azione bellissima, con una buona parata del portiere, però con anche un bello stop per smarcare il difensore, quindi anche in fase offensiva ha anche i calzettoni bassi, un po' come Vergara, ci piace anche per assolutamente quello. Assolutamente sì. Vanno protetti questi tre. Esatto, sono protetti, non ha assolutamente giocato male. Come sembra ritornato in forma Bernardeschi, sembra più o meno quello del prima dell'infortunio. C'è un buon passo, bella sequenza di passi, buona gara. E buone insomma visioni, bella la palla che dà in profondità a Castro. E poi è tanto Castro che fa il gol, però insomma la palla gliela dà. È bello anche un tiro che fa sul passo da appena dentro l'area, centrandosi con un movimento nella zona di campo in cui lo avrebbe fatto Orsolini, ma fatto in modo molto diverso da come l'avrebbe fatto Orsolini. Alla fine Benedetti tira sul passo e trova un ottimo Paleari probabilmente tra i migliori in campo dei suoi, ancora una volta. Sì, sì, è vero. João Mario, dicevamo, 34 anni, inizia a avere una certa età, però sai, sul portieri falso mito, quelli che invecchiano, no, è che è venuto fuori tardi lui in questo caso, però l'esperienza aiuta molto in porta, quindi c'hai la possibilità che a 34 anni hai visto cose che quelli di 22 più forti di te non hanno ancora visto, e quindi vai sulla continuità. Dicevo, João Mario è uno dei cinque che si fa sbertucciare da Zapata nel gol del Torino. Un fuori gioco, perché comunque sembrava, anche a me sembrava, lui stava rientrando dal fuori gioco, sembrava in fuori gioco, quasi come se in realtà c'era Vitic, che c'era uno, buoni tutti, esatto, ce n'era uno indietro e quindi il fuori gioco non c'era. E sì, appunto, lì in quella situazione lì João Mario, secondo me, ha un problema di non hai 90 minuti, ha giocato poco, si è allenato probabilmente, insomma era comunque fuori dal progetto la Juve, quindi si è allenato da esterno, sì, da uno fuori, quindi non mi sembra che abbia i 90 minuti, infatti poi viene sostituito da Zortea poco dopo il gol subito. E per quanto il Bologna, appunto, anche i cambi, no, a volte abbiamo fatto discusso sui cambi e le situazioni legate a queste, anche i cambi sono abbastanza coerenti. L'unico cambio un po' diverso, diciamo, dal solito, e forse questo è un segnale, è quello di Odegaard per Castro. Si era parlato quando alla fine del mercato che al Bologna alla fine mancasse un attaccante, era andato Immobile, tutti gli altri si erano stati scambiati, diciamo, un giocatore per ruolo, tranne l'attaccante, a cui si era preferito scegliere un difensore centrale, che era Elland, quindi su quello era. E qualcuno aveva detto, guarda, anche Odegaard è arrivato qua come punta, e non ha giocato male nella parte finale della partita, in cui ha giocato da punta, ha battagliato, ha sportellato, ha tenuto dei palloni, ha occupato delle zone di campo interessanti, viene anche ignorato colpevolmente allo scadere proprio da Miranda, che decide per un tentativo improbabile da fuori, che sì, va, ecco, Miranda, invece di servirlo. Miranda non è un brutto giocatore, assolutamente, ma c'ha alcuni momenti, cioè delle making decision avete chiamato Briatore, c'è Briatore, è inutile che insisti, cioè se ti vergogni stamattina non mi vergogno, non è la mia, no, capito, non provo assolutamente un minimo di vergogna, poi ne parliamo dopo, vediamo sarà tema di top 5 questo oggi, probabilmente sì, uno già c'ha i maroni girati per quell'altro branco di figli, di buona donna, no, siamo calmi. Fai una making decision, vuoi una camomilla, te la facciamo. Potrebbe essere una giusta decisione quella. Allora, sì, comunque, tornando a Miranda, ogni tanto fa delle scelte che sembra uno che è la prima volta che gioca a calcio, cioè il passaggio a Rabiot, il lancio in corsa a Rabiot, cioè proprio il lancio perfetto in corsa a Rabiot. Sì, quello rimane nel uno dei punti più bassi di calcio giocato, visti recentemente al Dallara. Proprio una roba diceva che non aveva proprio un senso, cioè non ho ancora capito qual era l'obiettivo. Farlo andare dalla parte opposta dove l'unico giocatore del Bologna era sull'altra fascia, era dall'altra parte in fascia, cioè tu dalla rimessa laterale volevi fare tutto il campo, cambio gioco con le mani mi sembra un attimo, un minimo insomma crea queste cose. Poi in realtà il gioco lo sa fare, cioè quando gioca, quando è concentrato, no, a pallone, è un buon giocatore, ci sa giocare. Allora, una nota su uno del Torino che a pallone ci può giocare. Io devo dire, sono stato contestato per questa affermazione nel salotto di intellettuali con cui ho guardato la partita ieri. Pedersen del Torino mi ricorda De Silvestri 10 anni fa. Adesso sembra una frase, è difficile poi ricordare. Mi sembra veramente un onestissimo interprete di un ruolo di fatica da calcio degli anni zero. Però secondo me De Silvestri 10 anni fa non era il De Silvestri di adesso. Era testa più calda, era bell'atleta, però con discontinuità, sì. Non era quel regolarone che invece potrebbe essere Marcus Pedersen. Cioè Marcus Pedersen all'età è uguale a De Silvestri, ma a 35 anni, sì, e lui ne ha 25. Lui ha 25, quindi non è un gran complimento. Però uno per che giocatore di lavoro può giocare a pallone, sì, ecco, sì, mettiamola così. Un regolarone, possiamo definirlo un regolarone. Vlasic, che è un po' l'uomo di quest'anno del Torino, le ha fatte tutte, tutti i tipi, ha fatto gol, autogol, simulazioni clamorose, drammatiche, si è però non è riuscito a tenere il gioco e quindi dopo ha fatto subito un sorriso all'arbitro come dire sì no, ma beccato, no. Scherzavo, era una cosa, era con un mio amico, sì, cioè proprio ha cambiato faccia proprio dicendo no, io figurati se faccio finta di aver preso un calcio. Non è l'unico a fare gol e autogol in questa giornata, sì, comunque vero, momento altro. Giuseppe Pastore anche sì, quello entrerà in top 5, esatto, in qualche modo. Sì, come l'avete nominato mo quello lì? Cioè, Giuseppe Pastore come è un grande, lo salutiamo, ma grande, ci segue, ma sempre è Tosatti degli anni 2025, ci segue, Tosatti 2026, senza cinghiali, senza cinghiali, esatto. anche io lo seguo. Allora Brodino per il Bologna che fa 3 punti in classifica dopo 1 milione di anni. Questa è una roba che in cui si era rotto optadata il sistema di rilevazioni statistiche, perché i 3 punti mancavano veramente da un bel po', da quella partita al Bentegodi col Verona. Verona, sì, in realtà negli ultimi, in questi 45 giorni che anche Italiano ha citato, ovviamente, insomma, dalla semifinale con l'Inter di Supercoppa, esatto, a esatto, ieri, diciamo così, erano 45 giorni abbastanza del terrore, proprio in cui il Bologna aveva una media punti del Pisa. Quindi, sì, il dramma era veramente addosso alla schiena dei nostri giocatori. Era quella, per ora, in questi anni abbiamo vinto solo in trasferta. Perché abbiamo vinto a Verona, abbiamo vinto con il Maccabi, quindi Bacicatopola in provincia di Vojvodina. Esatto, e a Torino sono 3 vittorie, 3 sei. Manca la vittoria dall'Ara, che prima di questi 45 giorni era il fortino rosso-blu. Quindi vabbè, le cose come cambiano all'interno di una stagione. Tutto questo per raccontare che siamo pari in classifica alla Lazio, che nonostante tutto ci è dietro perché abbiamo una differenza reti migliore. Ah, ok. E questo è veramente surreale, pensando alle parabole del Bologna degli ultimi. Lazio, che è proprio stata l'artefice della sanguinosa, dolorosa, tremenda, terrificante eliminazione ai calci di rigore del Bologna. Non sì, potevamo saltare in a pie pari. Esatto, c'è stata anche questa in assenza di Caffè Paglia, e la partita al Dall'Ara si era messa bene ancora con un gol di Castro, che quindi insomma bello, molto bello anche quello. Quello più insomma, anche più quello da punta, però nei canoni però della punta, e con un bel cross, calcio d'angolo di Moro e gol di Castro, e un Bologna che teneva in controllo la situazione. Poi l'errore diverso, uguale, simile ad altri già visti, che è una catena di responsabilità, una catena con Luis Ferguson che ha una parte, innesca la catastrofe, innesca, diciamo, esatto. Zortea è stanco, Lucumi è stanchissimo e la palla va in porta. Allora, va in porta. Quel pareggio lì si va ai rigori, e i rigori inizia male subito il Bologna, con due errori subito lì è difficile poi riprenderla. Vuol dire uscire dalla Coppa Italia da campioni. In realtà la semifinale era alla portata, non lo so, perché questa Atalanta mi sembra in forma, abbastanza in forma. Comunque è con l'Atalanta, quindi era una semifinale da giocarsi, e se la giocherà la Lazio, che a questo punto avrà la prima in casa e la seconda a Bergamo, al contrario del nostro caso. Hanno appena preso sui denti però, dall'Atalanta, dico. Sì, allora, certo. Qui non parte sotto buoni auspici, vediamo. No, l'Atalanta in questo momento, ne parleremo dopo, mi sembra veramente ritornata quella dell'anno scorso, ecco, diciamo così, deiuricizzata definitivamente. Beh, anzi, ti devi chiedere dove sarebbe l'Atalanta se non avesse buttato la prima parte di stagione. Due, tre mesi di campionato. Magari la Fiorentina ci tenevano Palladino. È la stessa roba, anche, la Fiorentina. Anche. Il Palladino potrebbe essere. Palladino se n'è andato lui da Firenze, sì, se non mi ricordo. Sì, è andato via lui. Andato ha via. Rescisso il contratto di sì, dico la dirigenza. Per me è un buonissimo allenatore. Ha dimostrato sicuramente. Lo sta dimostrando. Con l'Atalanta di essere veramente in grado di cambiare una squadra, perché quello poi il senso vero della capacità dell'allenatore: prende una squadra che non sta girando e riuscire a farla girare. Oddio, in questo caso forse, se vogliamo allargare il discorso, è stato più Juric che era riuscito a non farla funzionare più rispetto a come funzionasse prima. Un consiglio per gli allenatori diciamo così, che vogliono fare bella figura: guardare la squadra in cui allenerà Juric, esatto. E andare dopo Juric lì poi. Però questo secondo me è il secondo consiglio, perché il primo è prendere l'agente di Juric. Ah, sì, ah no, vabbè, sicuro. O anche di Tudor, che adesso ha appena trovato una panchina bellissima tra l'altro. Il Tottenham, quindi insomma, bella, bella panchina. Grandi meriti, se l'è meritata. Ha fatto bene. Beh, l'unica cosa, la Juve forse risparmia qualcosa, questo potrebbe essere utile da quel lato lì. E dicevamo, abbiamo insomma raccontato un po' tutto quello che è stata la settimana rossoblù. C'è un'altra bellissima notizia per l'ambiente rossoblù, ogni tanto una ce n'è: il rinnovo di Santi Castro, che in un momento in cui i senatori sono lì che fanno della filosofia, si siede al tavolo col direttore sportivo e allunga il suo contratto. Sì, è vero, questo è un bel segnale. Tra l'altro, casualmente, poi segna anche due gol consecutivi, quindi ha portato bene questa scelta. Evidentemente il ragazzo ha detto che qua si trova bene. Poi, se continuerà a fare gol tutte le settimane, qualcuno verrà a bussare alla porta e vedremo quello che sarà il suo futuro. Siamo arrivati praticamente alla pubblicità, ricordiamo il numero 333 180 94 94, sia WhatsApp che Telegram che SMS, e ci risentiamo dopo con la Top 5. Yeah! Rientriamo in diretta, intanto abbiamo recuperato i vari messaggi, dopo andiamo a leggerli tutti. E in realtà siamo insomma prima della Top 5. Io avrei messo la firma sullo 0-0 fin dall'inizio. Questa è una società che sta ricostruendo una squadra a campionato in corso. Un saluto a Francesco. Penso che parli del Bologna. La suggestione è che parli del Bologna. Bastoni, del quale fortunatamente non condivido le scelte né politiche né di vita, è un furbetto che rappresenta benissimo l'Italia odierna. Chiagni e Fott, e quando si può sono visti botte. Ricordiamo, primo simulatore della storia del calcio, Bastoni, non ce ne sono mai stati prima. Affascinante punto di vista. Ce ne sono tanti. Possiamo anche dire che giocare in verticale dà delle soddisfazioni ogni tanto, mica sempre. Un'altra cosa che aiuta è che io e Fio al Tatanka non dobbiamo vedere la partita assieme, quindi questo sì, dobbiamo sentirci o l'ascoltatore Nicola darci delle punte in bar diversi e non trovarvi. Pugliese, immagino, Nicola. No. Nicola. Salutiamo tutti i Nicola. Questa è discriminazione. Vedi che sono tremendi proprio, guarda. Veramente. Non si può da fare niente. Da quando hanno vinto lo scudetto sono veramente insopportabili. Veramente, non si tengo. Va bene, comunque andiamo a vedere com'è la Top 5, com'è composta la Top 5. Allora, alcuni spunti della Top 5 aleggiavano qua e là, e iniziamo da quello che abbiamo introdotto proprio con più diciamo razionalità poc'anzi, cioè il fatto che si affronteranno in Coppa Italia dopo la sciagurata eliminazione dal torneo del Bologna proprio Lazio e Atalanta, proprio le due squadre che si sono incontrate in una partita molto interessante per quello che ha raccontato proprio da un punto di vista del gioco, facendo vedere una Lazio volenterosa che comunque crea e disfa molte palle gol, e un Atalanta che è palesemente più forte. Atalanta, una delle squadre del momento, forse la squadra del momento, e già lo avevamo detto dopo l'Inter ovviamente, certo. Prima c'è l'Inter e poi ci sono tutte le altre, tra l'altro nelle ultime 10 partite è proprio seconda dietro all'Inter l'Atalanta, quindi evidentemente questa rincorsa alle posizioni europee partita diciamo appunto con l'handicap di Juric e della parte di Juric è in questo momento nonostante non una grande stagione di De Ketelaer che è infortunato spesso fuori quindi sì, l'uomo che poteva essere all'inizio comunque insomma sì, gioca Samazic se non gioca De Ketelaer sì voglio dire ha comprato la Spadori, è la squadra che ha spento di più ha speso di più nel mercato di gennaio la Spadori è l'acquisto più importante anche come nome del mercato di gennaio diciamo appunto l'Atalanta è anche un gran portiere Carne Secchi tra i protagonisti, tra i migliori in campo, in realtà le marcature le apre dal dischetto Ederson per un rigorino ino concesso all'Atalanta sul tocco di mano di Cataldi che in caduta con un braccio in una posizione bizzarra tocca il pallone, effettivamente un tocco con le mani sì, e stava scivolando verso la linea di fondo, un intervento un po' goffo diciamo che il tocco di mano rimane la regola più difficile da definire nel mondo del calcio forse quella perché appunto abbiamo detto il fuorigioco adesso quello lì è il centimetro sì però si potrebbe, è una linea si potrebbe, sì è vero e siamo d'accordo sul fuorigioco però sui rigori potremmo cominciare a mettere i paletti del tipo che ne so se fai il fallo di mano mentre stai effettuando un movimento in caduta o in scivolata, allora il rigore non è mai. Perché cazzo, cioè non puoi controllare le braccia mentre stai andando tipo in tegolo oppure scivolando. Io comincerei a mettere degli extra, dei paletti, delle situazioni specifiche, un po' più specifiche. Appunto dico, è l'unica che devi comunque definirla in maniera. Esatto. Non sei ancora riuscita a definirla in una maniera comune per. Chiara e comune, esatto. Per tutte le casualità. Lì c'è un tema di filosofia del diritto, possiamo definirlo. Nel regolamento, l'unico momento in cui il regolamento è esplicito su il tocco di mano è qualsiasi tocco di mano nell'immediatezza della marcatura di un gol comporta l'annullamento di un gol. È una casistica che si è vista in questa giornata, tra l'altro, nella vittoria del Sassuolo sul campo dell'Udinese, arbitrata benissimo da Maria Sole Ferrieri Caputi, uno dei migliori arbitri, così lo dico come Giorgia Meloni al maschile, della Serie A di quest'anno, perché semplicemente ha il superpotere di aver avuto una grande pressione sulla preparazione atletica ed è semplicemente sempre nel posto giusto. Ed è importante per un arbitro in questo calcio sempre più veloce avere un fisico che rende, insomma, non è semplice seguire. Per un arbitro, dico, seguire una partita attualmente di calcio. Fornò ieri a Torino tocca giocatori o pallone tre volte, fa due palle due in una partita normalissima. Cioè sì, non è che si corresse a una velocità che dici, era sempre in mezzo alle balle, questo è vero. Comunque, non è nella top 5 Fornò. Non c'è l'Atalanta, c'è Carne Secchi che abbiamo insomma, ecco, conferma. Ma è portiere veramente di livello alto. E conferma di essere uno di quei portieri che porta punti alla squadra anche. La blinda su Ratkov, su Noslin e su Isaksen tre volte. Una è davvero molto bella perché con la mano di richiamo in caduta sul palo alla sua sinistra con una conclusione ravvicinata forte. E protegge la porta dell'Atalanta, che poi raddoppia con un gol, con una bella triangolazione, si libera Zaleski e tira. Zaleski, vecchio cuore giallorosso, sta facendo una stagione davvero notevole. Zaleski sì, molto in crescita, in crescita lui e in crescita Bernasconi, che gli dà la palla, che inizia tutto largo a sinistra, poi va ad accentrarsi man mano che l'Atalanta prende campo e diventa una specie di centrocampista aggiuntivo anche in mezzo. È interessante anche come è impiegato tatticamente, da riguardare. Bene, primo punto quindi l'abbiamo fatto. Il secondo punto di questa top 5 dove ci porta? Ci porta in uno stadio pieno a tappo che fa impressione da vedere inquadrato dopo aver assistito a Torino-Bologna, che è lo stadio olimpico grande. Torino ha le sue questioni col pubblico e noi avevamo la trasferta vietata, quindi vedi quello lì e poi vedi il Diego Armando Maradona a San Paolo a Napoli pieno a tappo e dici beh, però non male, anche i romanisti hanno la trasferta vietata in tutto questo. È una partita in cui si affrontano due squadre che sono in due momenti proprio diversi della loro vita nel corso dell'anno, perché la Roma è in progressione e in crescita. Il Napoli sembra attraversare una crisi che in misura diversa ma con modalità simili assomiglia anche a quella del Bologna, se vogliamo. Il Napoli che viene da una bruciante eliminazione in Coppa abbastanza immeritata, ma poi i rigori bisogna saperli tirare, cheat. La Roma che viene da una progressione che sembra non finire mai, e il risultato alla fine è un 2-2 che non sta stretto a nessuno, ma una partita vera, bella, spettacolare. E siccome Malen, da quando è arrivato in Italia, è già stato troppo tempo in top 5, noi mettiamo in top 5 per il gol più bello della giornata, che in realtà è un autogol, Spinazzola. Beh, mettiamo Spinazzola che ha fatto una grandissima stagione fino a questo momento. Prima dicevamo Raspadori, l'acquisto diciamo più costoso del mercato di gennaio. La Roma è forse quella che invece ha migliorato di più. Tra l'altro il primo gol proprio è assist e gol di due nuovi giocatori, Gasperini, che è uno che minimo si lamenta delle squadre tendenzialmente, aveva segnalato, no? Più tempo che c'era bisogno, aveva detto testuale che probabilmente Massara l'aveva scambiato per un altro allenatore. Cioè, sì, proprio testuale così, cioè, no. Da questo punto di vista Gasperini è sempre chiaro, sì, e infatti sì. Sono arrivati Malen e Zaragoza, che non sono gli ultimi due arrivati. Per chi segue un minimo di calcio internazionale, sono due nomi che circolano insomma da anni. Ah, sono due giocatori di peso veramente interessanti. Veloce Zaragoza, che è un pistagnino non tanto grande in questo calcio in cui ormai sembra, no, tutti 1,90, se no non puoi giocare. Questo non è 1,90, ma si muove bene. C'è anche quella faccia un po' sbarazzina, no? Che è bella vedere in un ragazzo, diciamo, non giovanissimo, però ancora un ragazzo. Ma lui aveva fatto faville in Spagna, non mi ricordo con chi, l'aveva preso il Bayern, se non mi sbaglio. Probabilmente comunque è un wonderkid degli ultimi anni, è Football Manager, a Saragossa. Sì, il triplo in Spagna nella Liga, cioè, bruciava il campo. E poi sembrava che dopo, quando il Bayern l'ha ridato in prestito, sembrava un po' ridimensionato, adesso sembra rilanciarsi. Io invece sono molto contento di vedere Malen che gonfia la rete, anche se sì. Gioca nella Roma, ok, fratelli romanisti, gemellati, quello che vuoi, ma è proprio un mio feticcio, un nostro feticcio, e è bello vederlo giocare. Sì. È forte, lo vedete com'è, forte sulle gambe, guadagna campo già subito sul primo controllo, tecnicamente è un olandese, quindi non simula, sai, non simula. Non simula, adesso non lo sappiamo se ancora lo simula, non simula. Per ora gli olandesi difficili. Momentaneamente non simula, nel primo tempo si va a riposo sull'1-1, nel secondo tempo c'è spazio per un tentato psicodramma del Napoli, perché Rachmani causa un calcio di rigore mentre si infortuna, una cosa rarissima nello sport contemporaneo. Lui rincorre Wesley Franca e lo stende mentre già bestemmia perché sente tirare, e in caduta gli frana addosso. È un rigore che c'è tutta la vita. Direzione di gara buona, devo dire, di questa partita qua. Colombo, bravo. quindi si vede già sul dischetto addirittura Malen non lo batte sulle, il rigorista diventa lui, attenzione, non lo batte Pellegrini, vabbè, diciamo, ok, gli amici fantacalcistici, okay. Sì, beh, io non ci gioco, però in, so in che questo è momento Malen insomma, è una bella aggiunta, che non c'era più Pellegrini ma c'era già Sule, però in alternativa lo batte Malen e vantaggio Roma. Esce Rachmani, entra un altro neoacquisto, un gioiellino lusitano, Alisson Santos, che dialoga molto bene con l'altro neo arrivato giovane, forse la sua prima partita positiva da quando è arrivato a Napoli, e alla fine bello il gol di Alisson Santos, 2-2 e tutti contenti, nessuno contento, no, tutti contenti. Proveniente dallo Sporting Lisbona, attualmente tra le top 8 in Champions League. Quindi, insomma, a proposito di Sporting, è curioso che il primo gol di Alisson Santos con Napoli è praticamente identico all'ultimo gol di Alisson Santos con lo Sporting, che è il gol del 3-2 contro, certo, l'Athletic Bilbao, esatto, a Bilbao, una partita bellissima che lo Sporting porta a casa con lo stesso identico gol che fa ieri. È vero, è vero. Quello lì è il suo gol. È il suo gol. È il suo gol. Rientra sul destro e spara. Tra l'altro, prima non l'ho detto di Vitic, Vitic gli ho visto fare una cosa alla Bokema contro il Torino, il pugnetto. Ha fatto una volta il pugnetto, l'unica cosa che mi ricorda Bokema. Scendere dal pullman, pensavo. Vabbè. No, no, ha fatto il pugnetto di gioia che faceva spesso Bokema. E quindi, vabbè, ma a parte questo, non è nella top 5. 50 i punti del Napoli, meno 11 della vetta. In questo momento anche meno 3 dal Milan, che ha una partita in meno perché il calendario della Serie A, ricordiamo, è stato prodotto dall'intelligenza artificiale. 47, 3 punti di distacco, che però bastano per il quarto posto momentaneo alla Roma. Sì, esatto, in questo momento la Juve è fuori dalle, sarebbe fuori dalla Champions, cosa che assolutamente non capiterà. Andiamo avanti con la top 5, siamo al terzo punto. Ma sì, facciamo un punto di folklore, un punto di folklore che è stato battezzato pattinaggio sul lago. Pattinaggio sul lago è come il pattinaggio sul ghiaccio, ma il lago non è ghiacciato. Se sei a Como va così, e quindi una partita a calcio assume delle vette grottesche quando è interpretata dalle due squadre che giocano meno a pallone della Serie A, le due squadre che hanno negli atteggiamenti irritanti e provocatori e nella gnola, nel piagnisteo, non, attenzione, dai banchi delle conferenze stampa, ma in campo, una delle loro cifre stilistiche, e quando giocano Como e Fiorentina il cuore ti porta a odiare la viola, la testa ti porta a odiare il Como, ma alla fine una delle due comunque andrà via col sorriso, e in questo caso è la viola. Che Como giochi male adesso, mi sembra un po' infatti non riuscivo a capire che partita sta parlando, è una che partita è una forzatura. No, allora, noi con l'allenatore stronzetto e il gioco orizzontale siamo andati in Champions League, non è un tema è sulla scarsa propensione a impiegare il tempo della partita per giocare a pallone. Allora, ho capito, credo di aver capito, interpretato bene il pensiero di Fio, e ci sono un 50% in cui sono d'accordo, ok, perché effettivamente a volte quel tipo di gioco lì, a parte che comincia a essere un po' vecchiotto, vi faccio un esempio, Fio, ti faccio per corroborare ancora di più il tuo pensiero. Quando guardavo il Milan di Sacchi, parlo anche a te regista, c'era l'ammirazione per vedere una squadra fantastica che applicava alla perfezione, no? Il metodo dell'offside sistematico. Braccio alzato di Baresi. Però dopo un po' mi sono reso conto che in realtà era una squadra che mi annoiava a morte. Perché? Perché la primaria forza del Milan di Sacchi, come di tutti quelli che cercano di fare un gioco posizionale, è con quel palleggio orizzontale lungo, quel controllo là, con quel fuorigioco esasperato, di annullare le fonti di gioco avversario, che è un po' esattamente quello che fa il catenaccio, solo che è vista dal, diciamo, dall'altro, da dietro lo specchio, ok? E quindi sono un po' d'accordo con Fio, il messaggio di prima che parlava di quanto è bello il calcio verticale, ogni tanto ci piace. Vi ricordo che il Como 2 anni fa era in Serie B, sì, ricordatevi, sì, sempre questo. Io vi ricordo che i quattro fa girare il mondo, sì, okay? Cioè, quindi il Como in 2 anni è passato, sì, sì. Però in 2 anni insomma sono lì che bravi. È comunque un bel progetto, è veramente, è un progetto molto costoso, lo abbiamo detto sempre, però una volta possiamo anche dire con i giovani, sì, sì, assolutamente annoiare. Intanto, buongiorno ragazzi, volevo chiedere se esiste il podcast di Caffè Paglia. Nel sito di Radio CTV 5 non sono riuscito a trovarlo, forse perché cerco male io, e oggi non sono riuscito a collegarmi in tempo per ascoltarvi sin dall'inizio della trasmissione. Complimenti, della trasmissione, Tommaso, c'è. C'è, adesso dobbiamo aggiornare il sito, e ce l'hanno detto anche di là, ai piani alti, cioè, oh, vi svegliate, siete nel 2000. Non mi avevano segato, no. No, dobbiamo inserirlo, perché c'è il podcast, assolutamente, in questo momento si può trovare sulla pagina Facebook. Sì, puoi recuperare le vecchie puntate sulla pagina Facebook Caffè e Paglia by Al Paladar, e verrà caricata nelle prossime ore anche la puntata che sta andando in onda adesso. Esatto, ora ci sono quelle vecchie e tra poco ci sarà quell'altra, però hai fatto bene a dircelo, aggiorneremo anche il sito della radio con il link per chi vuole ascoltare il podcast. Andiamo avanti con il... abbiamo finito sul lago, il pattinaggio sul lago? O volevi dire qualcos'altro di male sul Como? No, segnaliamo che è la porta a casa la Viola, che il rigore per la Viola c'è tutta la vita, perché per Roma fa una roba da amatori. E il primo gol in maglia viola di quest'anno di Fagioli, rimpallo, però comunque è un gol che fa tabellino, un autogol non male di Parisi e una simulazione che vi invito a vedere, che sembra un attacco epilettico a un certo punto, e vabbè, sì, anche Morata che prende due gialli in un secondo e mezzo per una provocazione subita da una squadra che provoca persino più del Como, che è la Fiorentina alla fine. Bene, è riuscito a dire però qualcosa di positivo per il Como. Beh, sì, c'è ecco, una squadra peggio in un fattore. Non capisco questa, allora, la credine verso la Fiorentina, vabbè, ci sta, gli Appennini, la battaglia, questa cosa, la battaglia sul Como, ripeto, per metà lo appoggio, però ricordo che adesso, perché a molti sta antipatica, come era antipatico, so, il Red Bull Lipsia, ah, cioè quelle squadre che vengono poi da provetta. Red Bull Lipsia addirittura ha comprato i diritti di un'altra squadra, però c'è una squadra piccola quella che viene presa da milionari. L'operazione che portò la Red Bull fu effettivamente qualcosa di veramente brutto, cioè letteralmente peggio di quella che ha fatto Como. Como alla fine è arrivata la proprietà nuova con i soldi, cioè non è che ha strappato via lo stemma del Como, l'ha chiamato con un altro nome, gli ha messo i colori suoi, no. Sì, però non è una favola sportiva, se no, tutti gli anni spendi un centello sul mercato, hai capito? Bravissimo allenatore, è quello che abbiamo no, sempre. Bene. No, qualcosa abbiamo detto, qualcosa di più, ma eviterei di continuare con Como, perché ricordo che questo è da poco, ma ci possono sentire anche da Como sul lago, ci possono ascoltare, salutiamo Como. Loro dicono Como. Ok. Noi che notoriamente amiamo la Lombardia. Noi che amiamo la Lombardia in tutti i suoi luoghi. Andiamo a Parma, dove sicuramente ci sentono, perché c'è un punto in top 5 che si chiama Questa Illegal. Cioè, i tre punti che hai fatto a Bologna sono qualcosa di visionario, immaginifico. Quando incontri il Verona, che è una squadra in crisi di identità totale, e puoi fare la partita che vuoi, comunque sei talmente un ragazzo fortunato che ti hanno regalato il sogno di Orban, che subisce fallo e prende rosso. Inspiegabilmente al 12° minuto, da lì il Parma può fare... Ma già fatto gol. Cioè, la cosa incredibile è che tu sei 1-0 col Verona, allo sballo, subito dopo 4 minuti. E quindi già questa è... Bel gol di Bernabé, di cui abbiamo parlato comunque bene. Dopo 10 minuti... vanno pure l'espulsione all'altro, ma basta, cioè si ferma lì. Però è tutto vero, tutto giusto, ma ci sono sempre dei però, ma c'è sempre un ma, ok? Innanzitutto la divisa del Verona ci prova a diventare qualcosa di epico, di iconico, però come già sei un po' stufante vedere il nero con l'oro, il nero con il giallo, il nero con tutto, è bella però non balla, ok? Niente male però il tentativo. Ora però del Parma, ieri ho letto le statistiche, vicino a un 70 e passa di percentuale di possesso palla, tipo 27 tiri a 4. La settimana prima, e comunque durante tutto il corso del campionato, aveva dimostrato che invece era la fase difensiva il top di questa squadra, il focus di questa squadra, che statisticamente curioso ha semplicemente un gol in meno fatto rispetto al Verona, ma c'ha il doppio dei punti. Questo per descrivere in che tipo di situazione vive il Parma calcio, che comunque, se tu sei il Parma, una squadra che ti devi salvare, e davanti schieri Strefezza, Bernabé, Oristano e Pellegrino, Sai qualità. Segna il 2-1 definitivo Pellegrino su assist di Nicolussi Caviglia, che comunque sta trovando Nicolussi Caviglia, grazie, sta trovando campo, minuti, tutto a Parma. Dopo il momentaneo pareggio di Arrui, che trasforma dal dischetto, Arrui torna al Verona dopo essere stato a non giocare alla Lazio, ricordiamolo, e il rigore causato da Circati che sdraia Bowie, ne ho acquisto. Comunque 0 punti per il Verona, sempre più in crisi, sempre più da sotto, e punti pesantissimi per il Parma, questa il legale. Esatto, il Parma è andato, il Verona quest'anno ancora non ha tirato fuori quei nomi che negli ultimi anni aveva tirato fuori a gennaio, che potevano che l'hanno portata poi a salvarsi e rimanere in Serie A. In realtà ci sei il suo, però non gioca, no, è a Catanzaro e poi l'essere fino a questa devi salvarti quest'anno, non l'anno prossimo. Era solo per specificare se avesse tirato fuori qualche nome, sì, però non direttamente, dandolo in prestito, diciamo. Addirittura così si permette di fare questo, di poter dare giocatori, e gli servirebbe tantissimo. È quello che dico, per com'è la situazione forse sarebbe più utile alla causa, anche perché insomma il Verona in questo momento la classifica insomma inizia a essere complessa, sia per il Verona che per il Pisa, che hanno 15 punti, sono già 6 quelli che devono recuperare per l'ipotetica salvezza. In questo momento sono pari Fiorentina e Lecce, non so se c'è lo spareggio o vale la differenza reti, questo non ho certezza, ma Lecce deve ancora giocare una partita. Il Lecce gioca a Cagliari, partita a cui stare molto molto molto attenti se ti fate il Lecce in particolare. In questo momento appunto il Cagliari è abbastanza fuori dalla lotta per la retrocessione, è ovvio che una vittoria del Lecce potrebbe un po' risucchiarla, è difficile vincere a Cagliari, quindi insomma per il Lecce fare punti sarebbe importante. Ma possiamo fare una top 5 oggi senza citare il vero MVP di giornata, l'arbitro La Penna. Ora a me fa molto piacere vedere che uno scenario che si ripete da un sacco di partite continuamente ai danni di chiunque senza soluzioni di continuità. Il Bologna è stato già derubato più volte anche da questo signore, le interpretazioni arbitrali sbagliate o fantasiose o drammaticamente lontane dal reale sono all'ordine del giorno. Il pubblico di occasionali e di grandi critici di calcio del mainstream dell'informazione italiana si accorgono per la prima volta che un arbitro scarso può rovinare una partita. Complimenti. Si accorgono che nel calcio c'è la simulazione. Complimenti anche a loro. Si accorgono persino che dopo una simulazione un giocatore può esultare, cosa fatta da un cialtrone con la maglia del Como Senigallia 2 settimane fa, che finge di essere menato da Cambiaghi, ecco, mi sembra, e produce un rosso diretto. No, è vero, però dobbiamo sì, guarda, è quello che fa Vinicius ogni domenica, è quello che fa Vinicius spesso, però almeno è Vinicius ho capito, cioè, Perrone, quindi 10 all'arbitro La Penna. Si chiama, tra l'altro, si chiama come te, Mingo, Federico. Beh, bel nome. In realtà il livello allora, se è il migliore, io l'avevo già visto e non lo consideravo un arbitro di alto livello, questo La Penna, a prescindere dalle scelte di qua e di là. Però se è La Penna a essere scelto per Inter Juve, che diciamo è la partita più importante della giornata, c'è anche Roma Napoli, però vabbè, Inter Juve è sempre Inter Juve, vuol dire che il livello medio degli arbitri italiani è basso. Poi non ha fatto solo quella, ne ha fatte altre durante la partita, eh? Il fallo su di Thuram, c'era un mano forse in area, un rigore per l'Inter non visto, insomma. Diciamo sì, è un arbitro non particolarmente brillante, ma se va a Inter Juve vuol dire che è uno dei migliori. Ma infatti è lì il problema. Rocchi, capo degli arbitri, già come arbitro era quell'arbitro là, e da lì si costruisce quell'impero. La situazione in cui si trova lei in questo momento è la stessa in cui si trovano i fascisti di governo, che hanno più poltrone da riempire che culi da metterci a sedere sopra, quindi qualunque pezzo della catena alimentare, anche il più disastrato, può diventare sottosegretario, qualunque pezzo di can A o can B, anche il più insufficiente da un punto di vista atletico o di lucidità o di temperamento a partita in corso, può andare ad arbitrare uno dei big match del campionato. Eh sì, questo è il caso. In settimana, se non sbaglio, Spalletti ha ritirato un po' fuori il tema del fatto che solo erano in campo 22 professionisti e un non professionista. Forse il fare un po' come, non so, ad esempio l'NBA ha arbitri che sono assolutamente professionisti, vengono pagati e fanno solo quello tutta la giornata. È vero che leggevo i rimborsi spese sono molto alti, quindi uno potrebbe anche fare solo l'arbitro, però un conto è essere ufficialmente dello staff dell'organizzazione del campionato, cioè dovrebbe essere collegato. Un arbitro, se non sbaglio, guadagna più o meno 50.000 euro all'anno, più o meno, da rimborsi spese 50, vari, sì. Quindi un arbitro di buon livello. Sì, esatto. Un Lapenna. Un Lapenna a buon livello, quello. Ah, è vero, sì. È mandato a Inter Juve, quindi è uno buono. E così, questa è la situazione. Siamo arrivati lunghi, c'è la pubblicità, non puoi aggiungere niente. È una questione di stile. Una questione di stile, ma siamo in diretta radio. Abbiamo scelto la radio come mezzo proprio quello, perché uno può vestirsi come vuole. Gli volevo tatuare una penna sulla fronte. Potrebbe essere un tatuatore. Tu zitto che già esci di casa con i pantaloni della tuta e ti arresterei solo per quello. Solo Simone per quello. Ce l'ha su con quelli che girano in tuta. Sì. Che lui che è uno sportivo. In manette, vi metterei in manette. A ce l'ha con la tuta, che è l'abbigliamento sportivo per eccellenza. Invece siamo nella parte del calcio internazionale. Allora, si parla ancora del caso della giornata, un messaggio molto interessante. Adesso provo a leggerlo bene con la punteggiatura giusta. È successo tutto questo teatrino legato alla direzione di gara del signor Lapenna. È successo perché una volta sono quelli là ad aver subito il torto e in pompa magna sono andati a fare i teatrini in TV e a fare la morale. Chiellini, che fa la morale, dove nel suo stesso libro dice che non si vergognava di essere un figlio di puttana, su questo ha perfettamente ragione, in campo. La morale da quelli, anche no. È come il nostro ministro dei trasporti che fa karaoke cantando Che fretta c'era, con l'Italia che ha un ritardo dei treni da terzo mondo. Vabbè, io direi 92 minuti di applausi a questo messaggio. Vero, quello è. Non Tommaso, fa una piega. Tommaso, grazie. Non fa una piega, bravo Tommaso. Che diventano 115 se stiamo con gli orari di Trenitalia. I 92 minuti di applausi diventano almeno 115. 115 almeno, almeno. Almeno quelli. Bene, ma buttiamoci nel mondo dorato del calcio estero, del calcio internazionale, dove sono successe cose interessanti. Ho visto un grande Rayo Vallecano. Oh, possiamo partire da lì. Minchia, che botta il Rayo Vallecano. La presa a schiaffi proprio, che quelli là la settimana scorsa, se non mi sbaglio, avevano schiaffeggiato in Barcellona. Con doppietta di Lookman. Esatto, esatto. E invece vanno a Madrid e le prendono tante. Eh sì, e quindi insomma in una stagione vanno a Madrid, chiedo scusa, erano già a Madrid. Attraversano l'arco della tangenziale, esatto, praticamente. Esatto. Esatto. Rimanendo nella zona e perdono 3-0, quindi insomma mi sembra che possiamo partire da lì o no? Partiamo da lì, vittoria rotonda, proprio fa un bel turnover, fa un bel turnover il Ciolo, quindi le seconde linee dell'Atletico Madrid vengono prese a pallate dal Rayo Vallecano, che respira anche in classifica dopo un momento turbolento per la società. La proprietà è lontanissima dall'idea di calcio che c'è a Puente de Vallecas e nei quartieri popolari, dove il Rayo ha un culto molto molto radicato. Il campo in condizioni pietose, bisogna ancora recuperare la partita col Celta Vigo di un paio di settimane fa, però questi tre punti diventano molto molto importanti in classifica, perché portano appena sopra la linea di galleggiamento il Rayo, che comunque ha una partita da recuperare rispetto al Mallorca, che in questo momento sarebbe terz'ultima e retrocessa. Il Vallecano, il Rayo Vallecano ha 25 con una partita in meno, quindi il risultato era sicuramente importante. E per quanto riguarda invece il Real Madrid, rimaniamo a Madrid, chiudiamo col terzetto di Madrid, quello lì mi sembra che si sia ripreso. Sì, vittoria rotonda contro la Real Sociedad, che in realtà era la squadra più in forma della Liga dell'ultimo mese e mezzo, col nuovo allenatore Matarazzo che sta andando benissimo, e invece ieri il Real Madrid impone nettamente il proprio tasso tecnico. Quindi c'è già, per esempio, sul primo gol un magnifico pallone di Alexander Arnold alla Alexander Arnold, quindi quel classico assist di 30 metri ad effetto, che Gonzalo Garcia, che vi devo dire è un centravanti davvero forte, la spizzica proprio da puntero, un talento tipo una skill, la stessa skill che ha utilizzato Castro per il suo gol, però più al volo di controbalzo. Niente, Reale che la porta a casa 4-1. È un Real, Real. Esatto, in questo momento supera il Barcellona che giocherà questa sera a Girona. A Girona, e quindi potrà ritornare in vetta, ma in caso di vittoria, appunto, sarebbe un punto di vantaggio. Mi sembra che il campionato ampiamente ancora aperto. Soltanto una cosa, e poi passo, se no ci dimentichiamo. Nella Real Sociedad ci vuole, che è il caso, di segnarsi il nome di John Martin, questo ragazzino che arriva dalle giovanili della seconda squadra della Real Sociedad. Ci avete presente quei difensori che difendono? No, non li vedo più. Esatto, quelli che proprio vincono tipo 11 duelli aerei su 11 e c'ha 19 anni, vince 3 tackle su 3 tentativi, cioè, sai proprio il muro difensivo? Beh, quello lì. Ok, quello lì, segnatelo perché è davvero bello, quei difensori, sai, quelle belle carogne. Sì, adesso ce ne sono pochi, quindi insomma è più difficile trovarli. Appunto lo andremo a vedere. Local poi, perché lui è di San Sebastian. Sì, è proprio. Sì, Martin in realtà. Martin sembra l'hai inglesizzato, in realtà è Martin, John Martin. Perché ho letto che c'era l'udinese su di lui e allora ho cominciato a sbagliare gli accenti. Prima, cose in maniera preventiva. Non è vero, l'ho inventato, non sapevo se pronunciassi così, bravo il nostro regista. Vince a Oviedo l'Athletic Bilbao, yes, e yes. Nel gruppetto per l'Europa la battuta d'arresto dell'Atletico Madrid non avvantaggia il Villarreal che perde, ne approfitta solo il Betis che va a Mallorca a fare il risultato, vince 2-1 e quindi il Betis si avvicina a 4 punti, diciamo così, dalla zona Champions, è quinta in questo momento. Non so se la Spagna potrà avere le 5 squadre, ma non credo che lo sia in questo momento così, e quindi sarebbe Europa League. E Spagnol, che è un po' la sorpresa, ha 35 punti e Celta di Vigo 34, chiudono quelle che stanno lottando per l'Europa. Poi il trenino delle basche tutte in fila: Real Sociedad, Athletic Bilbao e Osasuna che pareggia 0-0 se non sbaglio in questa giornata, per concludere con la parte della Liga. Essendo che c'è una nuova capolista, si può andare in Francia comodamente, tra l'altro una capolista che ha vinto in maniera roboante. Ho potuto guardare una mezz'ora di partita del Lens e ti devo dire, sono tipo 10 pentatleti più Toven. Più Toven? No, adesso a parte scherzi, ma gente come Saïd, gente come Sangaré e gente appunto come Toven. Il Lens ha questa capacità, poi Fio, tatticamente sono curiosi. Quando sono in fase offensiva, diciamo gli ultimi 30 metri, si organizzano sempre con due coppie da due in linee parallele, orizzontali, sovrapposte una sull'altra, e fanno dei movimenti soprattutto orizzontali che tendono a occupare tutti e quattro gli spazi con appunto queste due linee sovrapposte da due, e sono molto divertenti da vedere perché creano appunto, non riesci mai a capire dove ti può arrivare il pericolo. Ok? Diventa molto imprevedibile. È una squadra atleticamente dominante. È una squadra che ti occupa tutto il campo, larghezza, profondità, velocità di recupero. Sono cazzi per il PSG se si vuole portare a casa pure questo campionato. Vediamo. Tra l'altro il 5-0 lo va a fare a Parigi ai danni del Paris FC, con Immobile che gioca 73 minuti toccando palla praticamente mai. Vabbè, questo incidendo sicuramente poco. No, visto che è una squadra molto atletica, comunque ci sta che abbia sofferto particolarmente. Uscito sullo 0-3. Esatto. Sì, quindi ha risultato già compromesso. Parallelamente Parigi, se il Paris FC piange, anche il Paris Saint-Germain non si trova in buone condizioni, per perde 3-1 con Rennes. Esatto, non sono riuscito a vedere le immagini, ma avevamo detto che il campionato francese, mi ricordo proprio il discorso che facevamo, questi hanno reagito all'assenza di copertura televisiva che si era venuta a creare. Come hanno reagito in Francia? Hanno puntato sui calciatori, hanno puntato sull'ABC proprio, cioè rendiamo il prodotto buono. Come lo rendi buono? Con i giocatori buoni, con i giocatori bravi, con una buona idea di calcio esposta in tutta la Lega, lo possiamo dire. E quindi non c'è una squadra francese che non ha uno, due, anche tre giocatori di cui tu ti puoi innamorare perdutamente, dall'ultima al PSG, che giustamente è il colosso, però hanno fatto davvero un ottimo lavoro ed è bello da vedere il campionato francese. È bello, appunto, lo stiamo seguendo di più quest'anno, anche più divertente. Stanno tipo per il Le Havre. Le Havre, squadra storica del campionato francese, in questo momento è tredicesimo, quindi non sta andando benissimo. Ti consiglio di guardare Issa Soumaré, che è la Letta, ieri doppietta, non male. Vedi il regista come ci sta dentro. Il campionato francese lo conosce. Tra l'altro partita incredibile, perché il Le Havre rimane in 10 al secondo minuto e poi vince 2-1. bellissimo, bello. Ti stavo dicendo appunto, gran campionato, doppio vantaggio francese, poi non è andato in svantaggio, ha vinto proprio bene 2-1 in 10 contro 11, cioè addirittura dominando la partita, dominando la partita dopo essere stato appunto per ero distratto da lo Strasburgo stava pareggiando poi alla fine ieri. Quanto col Marsiglia 2-2 sì sì sì 2-2 ha pareggiato lo Strasburgo su rigore con Kelly. Questo è un bomber era la prima partita senza De Zerbi questa qua del Marsiglia. Credo sia saltato anche Benazia o stava saltando come direttore sportivo, che è anche un buon nome da segnarsi se qualcuno in estate insomma deve stesse cambiare. Cercando un direttore Dopo Sean Sogliano, Benatia comunque può essere. Comunque segna Greenwood per il Marsiglia e poi va 2-0 il Marsiglia e la recupera lo Strasburgo su 2-2, Strasburgo che è in questo momento settimo, superato da Rennes che ha fatto il colpo diciamo così vincendo col Paris Saint Germain. Davanti Lens ha 52 punti, 51 il Paris Saint Germain, un po' più staccato il Lione che ne ha 45, il Marsiglia orfano di De Zerbi è a 40 punti al quarto posto che porterebbe alla qualificazione per la Champions. Ripetiamo, c'è un campionato che fino a ieri era letteralmente dominato da PSG e poi nulla, quest'anno vede la squadra campione d'Europa in carica penare, cioè penare tanto se si vuole portare a casa questo e non è detto che succeda, quindi vi dà la tara, vi dà la misura del livello del campionato francese. È vero, è in crescita nettamente. Cambiamo campionato? Vuoi andare in Inghilterra? C'è stato un infrasettimanale in Premier League che ci ha regalato grandi emozioni. Io inizierei da un gol sbagliato plateale di Lorenzo Lucca, che dopo aver citato Nostro Signore sui social alla sua prima marcatura in Premier League fa una roba veramente da... così dopo lavoristi stanchi, cioè quando il giovedì giochiamo a calcetto sì, giochiamo alle 9 però io finisco di lavorare alle 8 quindi arrivo con calma, Lorenzo Lucca. E 0-0 tra il Nottingham Forest e Wolverhampton che non serve praticamente a nessuno, anzi mette un guaio su un guaio perché la classifica lì non è particolarmente sexy. Sì, anche il Nottingham Forest non è messo bene, devo dire che è 17esimo, quindi sì, sarebbe salvo, ma con 3 punti dietro al West Ham, che invece sarebbe la prima retrocessa. Wolves fanalino di coda d'Europa con 9 punti in 26 partite, non male ragazzi, non male. Esatto, mentre si ferma anche l'Arsenal, la corsa dell'Arsenal in vetta, si ferma con il pareggio con il Brentford, che comunque è una bella realtà, novità anche un po' del campionato inglese. Non gioca il vostro ex terzino scozzese nel Icky? Gioca lì, sì. Brentford. Sì, sì, non era in campo, ma era andato lì. È una squadra interessante di cui avevamo anche già accennato qualcosa. Sì, mi sembra di aver letto un articolo in cui risultava essere la squadra più influente della Premier League a livello proprio di metodologie di lavoro, sistemi di gioco, sistemi di allenamento, rapporto con i giocatori. Quindi, insomma, non parliamo di pizza e fighi. Sono a ruota di modelli statistici, con un organico normalone, stanno facendo un bellissimo campionato. Sono settimi, subito a 2 punti sotto al Liverpool, che invece insomma, quest'anno ha speso tanto e buttato tanto, diciamo, scialacquato molti soldi, vince 1-0 con Sunderland ed è solo sesto comunque. Ha preso solo degli attaccanti, ha comprato magari ancora un tassellino, sì, sì, dietro, dai. Anche perché sono iniziati ad avere un'età dietro. Ma poi hanno preso tutti gli attaccanti e tutti uguali, perché non c'è questa grossa differenza A nel fisico e B nella metodologia di gioco tra Isak e Kitike e anche Gakpo, cioè sembra, è come se avessero preso lo stesso giocatore 3 volte, una cosa del genere. I tifosi del Liverpool non amano Gakpo e sono indispettiti dal modo in cui invece Arne Slot lo ama. È un tema della piazza di Liverpool. Un giocatore molto duttile, a me piace Gakpo. È uno di sacrificio, cioè una punta di sacrificio. Sì, sì, sono abituati bene, Liverpool. Sì, sicuramente sono arrivati bene. Invece è saltata la quinta vittoria consecutiva del Manchester United. Tu avevi detto di caricare la casa sul West Ham, non so se doveva essere un 1 o bastava un 1x. Bastava la non vittoria del United, quindi avevi proposto l'1x, e quindi è andata come doveva andare, cioè pareggio del West Ham 1-1, e già è già una notizia perché il West Ham appunto è in bassa parte della classifica, e il tifoso rimane col bulbo, e adesso dovrà aspettare almeno altre 5 partite per potersela tagliare. E niente, ti devo dire, beato lui che c'ha tutti quei capelli, beato lui è una parola grossa in questo caso. Vabbè, dai, però dai, 4 vittorie e un pareggio. E se fosse una spuntata, la poteva fare, una spuntatina. La butto lì. E se invece questo fosse uno scaramantico a livelli Super Saiyan, e pensa, se io continuo con sta farsa, questi a botte di 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie. Alla fine, insomma, 4 vittorie. Andava a rischi di. È buon ruolino. Di colpaccio, è un buon ruolino di marcio. Potrebbe essere. Nelle parti alte vince anche la Aston Villa, che rimane, diciamo così, collegata al treno, alla coppia di testa dopo l'eliminazione dalle FA Cup per mano di un Tonali clamoroso. Escono dalla coppa contro il Newcastle. Tra l'altro mi sa che oggi o domani deve giocare il Macclesfield il suo turno di coppa, forse col Brentford. Potrebbe essere che aveva preso una di Premier, credo, comunque la squadra di ottava serie di cui avevamo parlato, allenata dal fratello di Rooney. Bravissimo, questa sera a Macclesfield passano i ragazzi di Brentford. Esatto, tutta Macclesfield questa sera sarà lì. Ma guarda che stasera sono libero, cercherò in modo di trovare dove vederla, come chissà, vediamo. Chissà vediamo. Come potrà andare, proprio contro il Beffo, no? Confermi. Voglio vedere stasera, andiamo. Non ci credo neanche. Ho visto di molto peggio e di categorie più basse, probabilmente. Quindi figurati. Mi rivedo i ragazzi al bar con Nicola Roggero, che è l'unico che gli può dare conforto per una partita. Esatto. In quella situazione. Vedremo comunque. Questo per quanto riguarda la Premier League, Bundesliga. È andata come il solito, diciamo così, il 3-0 a casa del Werder Bremen per il Bayern Monaco, che continua la corsa, 4-0 anche della seconda, cioè il Borussia Dortmund a Mainz, a Magonza. Chiuso, dai, campionato chiuso ormai. Cioè, non c'è più. È abbastanza aperto quello portoghese, dove il Porto è primo in classifica, seguito dallo Sporting, 59 punti Porto, Sporting 55. E il Benfica con Mourinho 52. È abbastanza aperto, però questo qua ovviamente in Germania, a parte quell'anno che ha vinto il Bayer Leverkusen, cioè devono fare qualcosa per limitare il Bayern Monaco. Vero, cazzo, cioè, è vero. Non è più un campionato. È anche bello perché propone idee tattiche, sanno lavorare sui giovani. Belli stadi, però. Bel tifo, però è troppo scontato. Esatto. Cioè, il campionato è finito prima ancora di cominciare. Cioè, hai ragione. Cioè, e Bayer Leverkusen per vincerlo ha dovuto centrare una stagione che non ha uguali nella storia del un calcio. Un anno lo stava per vincere il Borussia, si è suicidata in casa col Mainz. Che è... Attenzione, però, quell'anno lì di cui parli tu era il Bayern che in realtà si era suicidato. Però dopo il Borussia quello butta, sì, dopo la fine sì. È vero, però poche volte. Seguiremo altri campionati, c'è anche l'interessantissimo campionato scozzese che avevamo citato inizio stagione perché poteva esserci finalmente la fine del duopolio Rangers e Celtic. In realtà, insomma, è ancora in testa l'Hearts of Midlothian a 57 punti, ma a 2 punti ci sono i Rangers e al 54 ci sono i Celtic. Quindi ci sono tutte e due. Una partita in meno il Celtic, tra l'altro. Il Celtic ha una partita in meno, quindi potrebbe recuperare anche qualcosa, potrebbe arrivare addirittura a pari, e quindi insomma la situazione è complessa per i tifosi, diciamo di Edimburgo in generale, immagino, perché ma di tutto insomma, il mondo del calcio, cioè, tutti tifiamo perché vincano gli Hearts of Midlothian, letteralmente chiunque segue il calcio. 40 anni che vince Glasgow, 40 anni. Tranne i tifosi dell'Hibernian. Esatto, tranne loro, probabilmente loro che sono appunto preferirebbero. Ricordiamo gli Hearts of Midlothian, in cui milita Sabba Keriota. Noi perché si tifa gli Hearts of Midlothian? Mica tanto perché stato euro rivale del Bologna stagione 90-91, ma con Saba Chiariotti, il nostro ex Saba Chiariotti, nell'organico, ha un giocatore della San Benedettese, capito? Ok, è vero. Ciao giocatore, per quale altro motivo ti credi che sono in testa alla classifica? Solo per quello. L'avevi detto che lui era buono? L'avevi detto, era buono, era buono. Ci manca. Stiamo avvicinandoci, diciamo, guardiamo velocemente la situazione della, in Belgio, dove lo Standard Liegi continua nella sua stagione un po' così, pareggia contro la prima in classifica, però 1-1, rimane lì nella spazio alle Standard, nello spazio dove succedono le cose. Mentre andare, ciance, dove siamo noi? Il Mechelen, allora, nonostante la sconfitta contro il Genk di 3-2, rimane attaccata alle prime 6, è sesta in questo momento. Bene, quindi andrebbe alla pool scudetto. Belle notizie per il Mechelen. Adesso abbiamo un minuto per parlare di Serie C, girone B. Cosa vuoi che ti dica? Stiamo colando a picco, cioè questo è il classico periodo che il Bologna ha attraversato fino a tipo l'altro ieri, ok? Ci avete presente voi altri che non attendo, noi uguali, perdiamo quando meritiamo di perdere, perdiamo quando non meritiamo di perdere, perdiamo quando meritiamo di pareggiare, perdiamo di continuo, sempre di misura, sempre con quell'affanno, sempre con quella ma si poteva vincere, si sarebbe bastato che quella palla non avesse preso la traversa o non fosse uscita di un centimetro o non fosse caduto un cazzo di fulmine dal cielo. No, adesso provo a buttarlo sul ridere. È una situazione in cui ci siamo messi da soli, dall'esonero di Paladini in poi non ne hanno indovinata una. È una situazione che ha un solo responsabile, che è il direttore De Angelis, insieme a tutta la società dietro di lui. È società e direttore che non si fanno vedere, che non parlano. Ok, sono sempre i giocatori e gli allenatori che ci mettono la faccia. È una squadra che ha, come dice Parigini, ieri ha detto bene Parigini, ha i mezzi, è una squadra forte, ma non riesce a tirarlo fuori. È quello che vi diciamo da inizio settembre, giochiamo bene, giocando a volte abbiamo detto giochiamo bene, ma non riusciamo a finalizzare. C'è talmente tanti problemi che è pure inutile stare qui a elencare tutti, non sapere nemmeno da dove partire. In questo momento ti gira proprio anche male, perché non ti entra i palloni che stanno entrando e poi a un certo punto non si sa per quale cazzo di motivo non entra. Quindi proprio stiamo colando giù, siamo in pienissima zona playout. Domenica vai a Ravenna contro i secondi in classifica, quindi è nata domenica in cui devi bestemmiare tutti i santi. E dopodiché c'è il derby contro l'Ascoli, che vanno forte anche loro il 4 di marzo. Quindi è il momento che qualcuno comincia a dimostrare di averci i moccoli maroni. Vedremo anche perché Torres, che vince a San Benedetto, è lì, vi raggiunge con la vittoria, vi raggiunge, quindi era dietro la San Benedettese, quindi scontro diretto. Per fortuna il Rimini è retrocesso e quindi la retrocessione non c'è, ci sarà il play out. I fratelli, tra l'altro, i fratelli di Rimini. Tu adesso in questo momento. Quanti fratelli avete? Roma, Bayern Monaco e Rimini, ok? No, io posso in te fare poca ironia sulla tifoseria, sulla curva. Assolutamente. Lasciamo perdere. Fatto sta che siamo in un mare di guai. Non so cosa possa succedere per tirarci fuori da questi guai. Vediamo. Bene, bene, bene. Con una parola di ottimismo andiamo in pubblicità. Forza Sam, forza Sam. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, insomma parte finale dedicata agli altri sport, diciamo così, molto molto ricca e molto densa. Ci sono le Olimpiadi, ne avevamo parlato la settimana scorsa. I giochi olimpici invernali, perché sono quelli invernali, fa freddo, c'è la neve e il ghiaccio, e quindi ci sono quelli lì, con quegli sport lì, quelli che ci sono all'interno di quel range, quindi anche il curling. Anche il curling, in cui siamo andati anche bene, mamma mia, abbiamo portato a casa, dai che il curling, dai. Però il biathlon, soprattutto il biathlon, abbiamo portato a casa anche un oro. Dopo avevamo iniziato la settimana scorsa occupandoci della staffetta mista, che aveva portato un argento. Lisa Vittozzi ha portato un oro col boato finale bellissimo. Ma se ci dobbiamo citare, parlando di sport, un nome di queste Olimpiadi, bisogna parlare di Federica Brignoni, perché mamma ha fatto mia, una roba che è quasi impensabile. Questa 10 mesi fa si è spaccata la gamba e non so se. Ma se l'è spaccata. Non so se avete visto l'infortunio, era proprio storta la gamba, cioè lei salta con la gamba a 90 gradi, cioè una roba che ancora ho i brividi rivedendola, anche solo mentalmente. E dopo 10 mesi lei vince 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Veramente un risultato incredibile dal punto di vista fisico, perché dopo 10 mesi praticamente da un infortunio in uno sport in cui usi fondamentalmente le ginocchia, le gambe, quelle robe lì, e vai veramente forte e veloce, insomma, incredibile quanto la forza di volontà, la capacità di superare se stessi è a prescindere dallo sport legato al grande sportivo, no? Ma che tipo, in quanta quantità di determinazione devi avere per uscire in una cosa del genere? È incalcolabile, cioè se io ne avessi un milionesimo a fare tutt'altra vita. E che dire sulla Brignone? È molto probabile che le dimensioni di questa impresa oggi, che è ancora fresca, non ci è chiara, perché ha fatto davvero un percorso di recupero sportivo, medico, emozionale abnorme, davvero enorme, e è saputo nelle parole nello scambio tra Mattarella e la Brignone col presidente, bellissimo, nella sua tuta bianca, tutto bello col tricolore, e gli dice il presidente proprio, e anche in modo affettuoso: posso dirti cioè me l'aspettavo, insomma, ci contavo. E la Brignone che gli risponde candidamente: ma per fortuna che io non tanto. E che dire, atleta leggendaria. Sì, veramente. Bella il racconto per cui dopo il primo oro, nel primo momento di decompressione, apre i suoi social e vede il feed di Instagram e la timeline di Facebook piene di immagini del suo infortunio, e lei decide di log out, di quittare i soldi. Dico: ok, basta, adesso dobbiamo rilassarci, veramente, basta queste cose. E poi ne prende un altro. E poi questa cosa va a vincere anche il gigante, e quindi veramente impresa incredibile. C'è stato un altro atleta che ha provato a fare un'impresa incredibile, gli è andata male, perché poi ai grandi atleti può anche succedere. Sto parlando di Lindsay Vonn, che a 41 anni si va a sbattere. Quanto mi è spiaciuto, però. Sì, però fuoco sì, olimpico. Era proprio, questo è tipo 3 settimane fa, si era fatto crociato. È entrato proprio col braccio nella porta, purtroppo incidente, e si è spaccata tutto, si è super infortunata. Lei, insomma, ha dimostrato comunque grande volontà e voglia di esserci. Sicuramente la sua ultima Olimpiadi, e voleva esserci, invece appunto la Brignone è riuscita in questa impresa, non a caso c'ha qualche anno in meno, 35 invece che 41, però sicuramente grande cosa. Ma è un medagliere bellissimo, ragazzi, io davanti agli Stati Uniti, guarda lì là, siamo secondi, manca ancora una settimana e abbiamo già superato il numero di medaglie e ori vinti a Lillehammer, che era il record, erano 20 secondo me le medaglie vinte, siamo a 22 vinte con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, vicino alla Norvegia. Si vola, ragazzi, cioè, abbastanza vicino alla Norvegia. C'è un po' di Norvegia anche nel più esotico degli ori di queste Olimpiadi, perché quando pensi agli sciatori difficilmente pensi ai brasiliani. È vero, non so quante medaglie avessero vinto il Brasile, forse la prima. È decisamente la prima nella storia delle Olimpiadi invernali, cioè altre discipline comprese. Luca Spignero Braten, che comunque è nato a Oslo, pur essendo per parte brasiliano, pur avendo scelto i colori del Brasile, vince un oro clamoroso. E lo festeggia telefonando ad Alberto Tomba. Questo è proprio un momento surreale della storia dello sport che dovevamo raccontare. Esatto, no? Assolutamente incredibile storia, che si intreccia alle varie situazioni che abbiamo trovato questi giorni, che ancora devono, insomma, portare altre soddisfazioni anche all'Italia. Colgo l'occasione per fare un appello alla Rai. Ok, allora, se io sto infogliato col piccolino a guardarmi la gara di slittino a tutta voce, questi che fino con un'estetica nei caschi fio da raccontare, perché è decisamente tutto bello infogliato, e all'improvviso, dal nulla, tu mi switchi sul pattinaggio di figura, bellissimo, portare a casa medaglia, quello... ecco, diciamo non si fa. Non si fa. Non si fa così, ok? Non si ma fa. Ma lì ci sono i canali Rai Sport. Ho andare... capito, però non si fa così. Cioè, lo slittino è molto bello, anche lo Skeletor. Skeletor capito, ma è bellissimo. Ancora di più lo Skeletor, che è quello a testa in giù, che è veramente da pazzi, vanno anche lì a 100. Mille modi per morire. 100 e passa chilometri all'ora. Si fiondano a testa in giù, veramente bello, come insomma, ci sono tanti sport divertenti, a me anche lo short track alla fine mamma mia fighissimo, diverte per l'adrenalina che ha e anche per la possibilità, il famoso Bradbury che vinse arrivando sempre ultimo, cioè nel senso c'è anche quella opzione lì. A proposito, un assist meraviglioso di Mingo, è venuto fuori, ho trovato un'intervista della Gialappa in cui ammetteva l'errore fatto nella narrazione, nella narrativa che poi si è venuta dopo su Bradbury. Loro hanno messo l'errore perché non conoscevano la vera storia di Bradbury, e in realtà la medaglia d'oro di Bradbury più scanzonata della storia di Olimpia è in realtà la più meritata, perché qua parliamo di uno che era fortissimo nelle giovanili, era veramente un campione predestinato, che in un incidente in pista si squarcia letteralmente tipo con la lama vicino alla gola, non so, cioè l'hanno preso per le penne letteralmente, poi torna su in classifica, ritorna su un atleta, si rifà male, alla fine si qualifica per quei famosi giochi olimpici e vince la medaglia in quella maniera lì, ma è letteralmente il karma che gli ha ridato tutto in mondovisione e in diretta, e questo continua a credere che sia la medaglia più bella della storia delle Olimpiadi. Sì, perché poi con la telecronaca originale di Franco Bragagna, top numero uno, quella poteva essere appunto con Apollo Antonono, quel dio greco che in realtà era l'atleta degli Stati Uniti, fantastico, che ruzzola come se pattinassi io praticamente, uguale è veramente penso la medaglia più poetica che abbia mai visto, è davvero leggendaria. L'abbiamo appunto citato, è bello lo short track, divertente, e anche insomma tutto quello che si sono inventati, anche lo snowboard cross è molto bello, quello dove c'è la gara a 4, bravo, esatto, c'è proprio sportellato, sì figo. Perché ricordiamo, uno sport per essere tale tu ti devi confrontare direttamente. Volevo soltanto aggiungere una cosa a livello estetico, perché sappiamo che i nostri ascoltatori sanno che ci teniamo, e studiamo un attimino dei giochi, torniamo un attimino al calcio, 2 secondi. Adidas per Giamaica presenta un kit delizioso, non so se ci avete tempo di una settimana, cercate il kit nuovo della Giamaica, sia home che away sono deliziosi, ed è molto bella anche la maglia della Norvegia con cui andrà ai mondiali. Lo so che ci fa male quella della Norvegia, però bravi, ottimo lavoro. È tutto così bello quando ci sono i giochi olimpici. Diventa tutto, sì, si allarga, capito? L'effetto si allarga, tutto molto bello. Giamaica, tra l'altro, mondiale di Francia 98, c'era anche la Norvegia, avevano due maglie incredibili, tutte e due. Vabbè. Bravo Fio, questa memoria storica. Comunque, della K, me la sono andata a riguardare perché me la ricordavo molto bella. Adesso dov'è che possiamo puntare qualche medaglia? Dove siamo? Qui mi sono perso il programma. In questo momento c'è la 1000 metri short track femminile, Arianna Fontana nella batteria dei finalisti, si può fare bene, potrebbe diventare l'atleta più medagliata non a pari merito della storia delle Olimpiadi tutti i tempi italiani. A proposito, sempre credo una short track, il secondo oro della Pellegrini è fantastico, quello che vince per 10 centesimi, ha resistito fino alla fine, non so se l'avete beccata con la cronaca, con la telecronaca degli spagnoli, è un momento di alta televisione ed è davvero molto molto molto bello, è una spedizione oggettivamente entusiasmante, e io e la neve ti posso assicurare che non andiamo d'accordo, però è una bella settimana, speriamo che la prossima che arrivi possa sicuramente portare altre situazioni, perché insomma già siamo al record, quindi insomma anche ne basterebbe, insomma saremo già segnati per il record. Andiamo al basket prima di chiudere, basket è andato tutto bene per le compagini bolognesi, la Virtus si riprende dopo la scoppola di Istanbul contro l'Efes, è andata male in Eurolega, direi finita, cioè ormai buttato, sì, poche speranze di poter entrare nei 10. Questa vittoria, tra l'altro un Efes che è sotto la Virtus in classifica, è una delle delusioni, diciamo così, della stagione di Eurolega, si è un po' rifatta giusto contro la Virtus in quest'ultima giornata. Invece per quanto riguarda il campionato, la vittoria, anche se diciamo delle tre è quella che ha sofferto di più, tra Bologna, Fortitudo De Virtus, un po' a sorpresa, è quella che ha sofferto di più, vincendo di 4 punti contro Udine. Sì, primo quarto a razzo, secondo quarto si fa rimangiare tutto e poi diventa una partita comunque più giocata di quanto si potesse pensare, cioè più tenuta lì. Esatto, questo conferma comunque il primo posto in classifica per la Virtus, che ha battuto Brescia nello scontro diretto, e adesso si va verso il anche le Final Eight. Ormai dovrebbero essere vicine le Final Eight, è proprio il 19 si gioca, quindi questa settimana inizia le Final Eight di Coppa Italia. La Virtus giocherà contro Napoli nella prima della sua prima partita di quarto di finale, diciamo così, mentre le altre saranno Brescia Udine, Olimpia Milano contro Trieste, Venezia contro Tortona. Questi i quattro quarti di finale per assegnare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, anche se la Supercoppa già conta poco nel calcio, nel basket ancora meno. Diciamo il primo vero trofeo è la Coppa Italia, no, per il basket. Per quanto riguarda la A2, vince la Fortitudo, che va a giocarsela a Ruvo di Puglia contro una squadra di quella della zona playout, nel momento in cui la classifica è stata rivoluzionata dall'esclusione di Treviglio, contro cui la Fortitudo aveva perso, la classifica è cambiata completamente. Sì, ed è incredibile, una classifica per quello che noi amiamo la A2, basket A2, il campionato degli italiani. Caro Simone, so che anche tu mi chiedevi appunto com'è possibile che dopo 25 giornate la classifica veda Pesaro a 36 punti e poi altre 6 squadre a 34, cioè due punti da Pesaro. Ci sono 6 squadre che farebbero la griglia completa dei playoff, diciamo così, hanno tutti lo stesso punteggio. È vero che la Sebastiani Rieti ha una partita in meno come Brindisi, quindi potrebbe fare qualcuno anche una partita in più. Sì, Cividale ha una partita in più, Cento ne ha due in meno, cioè è molto molto complesso, molto inglese la classifica. La Premier League non ce ne eravamo accorti, esatto, più o meno con la Premier League, però sono tutte lì, quindi in realtà la classifica appunto andrà rivista nelle ultime giornate, perché in questo momento nulla è deciso. Pesaro insomma è prima dall'inizio della stagione, è quella forse la squadra più attrezzata, però continua ad avere solo una vittoria di vantaggio, quindi non può dormire sonni tranquilli, tenendo conto che comunque la prima va su diretta, fa una bella differenza evitare il playoff completo, insomma andare su direttamente. Alla prossima la Fortitudo becca ospita in casa Rieti, che è lì ai piani alti, un'altra di quelle a 34, metà campionato praticamente diciamo Rieti è quella che è insieme alla Fortitudo ma una partita in meno, quindi ancora più possibilità di addirittura potrebbe essere pari a Pesaro. E Pesaro invece ospita Rimini, che non ha questa velleità di salita diretta, almeno non era una squadra costruita per questo, ma è a 34 punti. Quindi scontri tra squadre a 34 punti, come se piovesse in un campionato veramente molto livellato. Ti vedo. E insiste, è il regista che insiste ancora, la penna arbitro numero uno, bla bla bla, se calzate fa. Insiste. Oggi insiste. È contento, un po' come aver vinto contro la Juve il giorno di San Valentino con un mezzo furto. È proprio quelle cose, quelle giornate lì difficili da raccontare. Anniversario del massacro di San Valentino, per l'appunto. Velocemente, test Formula 1 in Bahrain, giran piano queste macchine, rega, non c'è niente da fare. Giran piano perché hanno dei picchi di potenza superiori a quelli delle auto vecchie, ma sono picchi di potenza che si ottengono solo quando le batterie del sistema ibrido sono completamente cariche. Per arrivare a questo bisogna o battezzare dei giri in cui vai piano oppure cambiare stile di guida cercando di guidare in modo più fluido e raccordato possibile, aumentando gli spazi di rilascio, cioè in cui non dai gas, la macchina scorre prima della frenata vera, che è il contrario di come si guida in pista. Sì, come fino adesso hanno fatto. Infatti Verstappen è imbufalito, gli altri dicono ma è curiosa questa cosa, interessante, una cosa nuova. Verstappen non ne può più. È già lì che... Sì, pare che abbia detto... riporti il testuale di Verstappen, avete cagato, ha detto proprio così, ha detto, allora adesso, a parte gli scherzi, mi ricordo un po' quella situazione, Fio, tu che sei la memoria storica dei motori qua dentro, ti ricordi quando Ayrton Senna, che era in ballottaggio col contratto nuovo, fece un test con un'auto del team Andretti di IndyCar, No, non so se vi ricordate bene, questa è una particolarità, e la Formula 1 in quel momento ha rischiato seriamente di perdere il proprio numero uno, il proprio quello che è Max Verstappen oggi, e Verstappen a me dà l'idea, mi dà quelle vibrazioni di uno che alla che si stonano, che si comincia a stancare di quello che vede intorno a lui, e siccome questo qui pare essere il pilota vero che quando c'ha un minuto di tempo libero, indovinate che fa? Va a correre con una Ferrari 296 privata e va vincendo insieme ad un amico suo copilota qualsiasi gara a cui partecipa, è uno che ti lascia lo spiraglio per andare a correre in qualche altra, cioè questo è uno che vuole correre, ok, non ne può più di ste stronzate che un'auto di Formula 1 per andare più forte devi prima andare più piano, che cioè alla fine è questo, no, il concetto, effettivamente ha ragione. Poi noi siamo qui fiduciosi che magari ci hanno ragione loro e questa nuova regolamentazione porterà ad un livello più equilibrato, le macchine magari cominceranno ad andare forte, non lo so, però a occhio e croce pare che Verstappen abbia centrato il punto, vediamo come evolve la situazione. Ferrari si dice, si mormora che il motore comunque regge gli stinti di giri consecutivi ed è già un micro punto di partenza, vediamo come evolve, vediamo com'è. Bene, intanto nella notte c'è stato anche lo Star Game in NBA, è cambiato un po' le regole, stanno cercando un nuovo format per renderlo un po' più divertente, come poteva essere divertente gli anni 80-90, diciamo così, era veramente una partita che gli appassionati volevano vedere, no? Soprattutto difendevano, sì, minimo. Giocavano, difendevano, avevano voglia di partecipare alla partita, poi è diventato per lungo tempo un mezzo allenamento. Ma sai perché? Perché ce lo ricordiamo tutti che a gente come Michael Jordan di perdere a qualunque cosa, a qualunque cosa amichevole è una, non esiste, ma cioè proprio è per quello che sono diventati i Jordan e compagnia cantante. È vero, e quindi insomma per quello che era un po' perso, diciamo, l'entusiasmo, hanno provato a fare giocatori che chiamavano, hanno cambiato varie formule, diciamo così, la squadra modello campetto, no, con i capitani che chiamavano i giocatori, hanno provato varie cose. Quest'anno hanno creato un triangolare, c'erano USA Stars, USA Stripes e World, cioè due squadre di statunitensi e una squadra di stranieri, e quindi adesso io non so se Stars o Stripes erano divise, in che modo divise quelle due squadre statunitensi. Una era giovane. Erano giovani contro vecchi, diciamo. Sì, veterani contro giovani. Stars erano i veterani, Stripes erano i giovani americani contro World. Hanno fatto un triangolare giocando 3-4 partite e sembra, io non l'ho seguito, ma sembra che le cose siano andate. E allora a questo punto siamo arrivati al termine, dobbiamo salutare e lasciare lo spazio a Popolare Network.